Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata al Salone del Libro di Torino che si chiuderà lunedì sera. Un'edizione, la 26esima, dedicata alla creatività in tutti i campi, dalla narrativa alla scienza, dalla politica alla tecnologia. Ma che cosa trova il lettore che viene qui al Salone? La parola a Ernesto Ferrero, direttore editoriale. Anzitutto trova quello che di solito è difficile trovare in libreria, perché lo spazio in libreria è quello che è. Vengono qui soprattutto per frugare nei cataloghi degli editori piccoli e medi, e questo che non vengono qui per comprare il best seller che è uscito l'altro giorno. Poi vengono qui per ascoltare gli autori amati e per partecipare a dei dibattiti che toccano i grandi temi della società civile e che sono molto partecipati. Io dico che qui da anni si vede non l'antipolitica, che in fondo sa solo inveire, ma la voglia di una politica nuova, di una politica diversa che si fa nell'interesse della polis, cioè della città. E anche qui, anche questo è molto bello, cioè si crea un clima di ricerca tutti insieme, e certo la domanda è: noi cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? E beh, credo che dobbiamo, a questo punto, vista la crisi dei partiti, dobbiamo inventarci qualche cosa, insomma, un nuovo modo di stare insieme e un nuovo modo di pensare come stare insieme. Paese ospite di quest'anno è il Cile, che può contare sulla presenza al Salone di Luis Sepúlveda, uno degli scrittori di origine cilena più amato al mondo. In un incontro affollatissimo e molto emozionante, Sepúlveda ha raccontato, anche in maniera ironica, il suo rapporto conflittuale con il Cile, dall'infanzia a quando è stato costretto all'esilio dal regime di Pinochet, che l'aveva anche reso apolide. Non mi hai sentito cileno di questo nuovo Cile inaugurato dalla dittatura. Questo Cile dell'individualismo, della paura, della tortura, della violazione di tutti i diritti umani. Certamente non c'era nessuna motivazione per sentirsi orgoglioso di essere cileno. Fra gli scrittori cileni scomparsi, grande spazio è stato dedicato a Neruda e Bolaño. Tema del Salone del Libro di quest'anno, dicevamo, la creatività. Sentiamo in che modo scatta il processo creativo per Margherita Oggero, scrittrice torinese, madrina di questa edizione, e che ha ambientato il suo ultimo romanzo proprio fra gli stand del Salone. Scatta sempre molto casualmente, perché per esempio per l'ultimo libro, quello che è proprio ambientato qui al Salone, è nato qui al Salone l'anno scorso, ma in modo del tutto casuale, perché io parlavo con la direttrice della narrativa italiana della Mondadori, che mi stava chiedendo che cosa stessi scrivendo. Ho detto: niente, in questo momento sono in pausa. In quel momento dall'altoparlante esce un annuncio che cercano un bambino che si era sbarrito. Ho detto: ecco, invece scriverò la storia di un bambino che si è sbarrito. Però poi in realtà i bambini sono diventati tre e comunque non si sono smarriti, ma si sono volutamente allontanati dalla babysitter, dalle maestre, eccetera. Da una scrittrice affermata ad un giovane esordiente, Marco Cubeddu, autore di Con una bomba a mano sul cuore, Mondadori, ci racconta come si fa a pubblicare il primo romanzo da emerito sconosciuto. Si ha una folle arroganza iniziale e poi si manda il manoscritto alle case editrici pensando che non lo leggeranno mai, e invece Antonio Franchini di Mondadori l'ha letto e mi ha telefonato. Come ci si sente a essere esordiente e a essere già in un così colosso, così grande come il Salone del Libro di Torino, frequentato da grandissimi scrittori e da tanto tanto pubblico? Ma la vera differenza, io vengo al Salone del Libro da anni e anni. E prima rubavo i libri degli altri, quest'anno per la prima volta ho rubato dallo stand anche il mio libro. Non ho ancora accertato se l'euro di royalty mi arrivi o no, a seconda lo restituisco o me lo tengo. L'ironia non manca, per fortuna, a questo giovane scrittore, in buona compagnia con altri esordienti che negli ultimi anni hanno grande spazio al Salone. E ai giovani e ai bambini è dedicato un intero padiglione, il Bookstock Village, stand di editori per i più piccoli che, oltre ai libri, propongono incontri e laboratori. Anima del Bookstock Village è lo scrittore Andrea Baiani, che ci spiega qual è il segreto per avvicinare i ragazzi alla lettura. C'è un'unica ricetta, mostrar loro degli occhi di passione per i libri. Un ragazzo si specchia negli altri, ci specchiamo sempre negli altri. Se vede una persona a cui la lettura ha cambiato lo sguardo, Quella è l'unica, non c'è nessun'altra ricetta, non c'è il buon senso, non c'è la necessità o la volontà di spiegargli che gli cambierà la vita, no, c'è semplicemente il dimostrare loro quanto un libro possa cambiarti lo sguardo. D'altra parte questa è una cosa che succede fin da bambini si vuole il giocattolo, il gioco che ha il compagno di banco, il vicino di casa, non tanto perché si ama quell'oggetto, quel giocattolo, ma perché si vogliono gli occhi che ha quel bambino quando ha quell'oggetto in mano. Fra i temi sociali trattati quest'anno al Salone del Libro, anche il femminicidio e la violenza sulle donne. Serena Dandini con il suo libro e reading teatrale, Michela Murgia con il suo manifesto contro la violenza, ma anche un graphic novel dedicato a un tragico fatto di cronaca. Si intitola Io so Carmela, pubblicato da Becco Giallo, che da anni si dedica ai fumetti tratti da storie vere. Disegni di Monica Barengo e sceneggiatura di Alessia Di Giovanni, che ci racconta la trama. La storia vera è la storia di Carmela Cirella, che è una ragazzina di 13 anni di Taranto che è stata abusata da 5 uomini diversi che lei ha denunciato, uomini che sono ancora attualmente a piede libero. Carmela non è stata creduta ed è stata rinchiusa in un centro di recupero e sedata, fortemente sedata, senza il consenso della famiglia. Carmela non ha resistito a quella che lei vedeva appunto come un abuso, e nonostante appunto un certo recupero, poi ha deciso di suicidarsi. Sono passati 6 anni dal suo suicidio e questa storia vuole ricordarla però come donna, come ragazza che lottava, non come vittima. Il suo suicidio è una riaffermazione della sua identità. Carmela aveva una cosa particolare, scriveva sui muri, soprattutto dopo le violenze, Io so Carmela, che è il titolo del libro, come per riaffermare io sono qui, io ci sono. La storia di Carmela è una storia di violenza raccontata con il fumetto, permette veramente di avvicinare anche dei lettori molto giovani. Fra i libri che stanno andando per la maggiore al Salone non poteva mancare Inferno di Dan Brown, uscito da qualche giorno. Ma l'inferno dantesco è protagonista anche di un fantasy tutto italiano firmato da Francesco Gungui per Fabbri Editore. L'inferno di Dante mi aveva sempre colpito, mi colpiva l'immaginario, mi colpiva la costruzione del luogo inferno. Così cosa ho fatto? Ho preso la mappa dell'inferno e l'ho realizzata all'interno di un vulcano, che è diventato quindi una prigione di massima sicurezza, con un ragazzo, non nel mezzo della sua vita, ma nel quarto, perché ha 17 anni, che deve compiere tutto il viaggio dell'inferno e recuperare mai la ragazza di cui è innamorato. Ma questo è un periodo negli ultimi anni in cui Dante va così di moda, ecco, diciamo così. Ma allora, devo dire, quando io ho proposto il mio inferno all'editore, Dan Brown non era ancora uscito allo scoperto, per cui adesso so che nessuno mi crederà, ma è così, ci sono i documenti che lo dimostrano. Ho firmato il contratto a dicembre e poi a febbraio è venuta fuori la notizia, nuovo titolo di Dan Brown svelato, si intitolerà Inferno il suo nuovo libro. E allora, cosa si può dire in queste circostanze? È nell'aria, è qualcosa, era il momento giusto? Sicuramente l'inferno di Dante è anche un'opera che parla di tempi di crisi, per cui se non sono tempi di crisi nostri. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri in versione speciale dal Salone del Libro di Torino. Vi ricordo che trovate questa e le altre puntate monografiche sugli scrittori su www.radio24.it. Ci trovate anche su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.